mi ritrovo a guardare in uno specchio la mia immagine riflessa, e certo non posso dire che riconosco il viso di chi mi sta di fronte. Mia vita, anche con impegno non lo troverei. Uno sguardo, quello mi basta. Riposa sul tuo viso la mattina presto e vado a lavorare, a perdere il mio tempo nel teatro dell'assurdo tra gente sconosciuta, quando l'unica cosa che voglio fare è stare con poi, per un grammo di felicità, sopporterei le ore perse nel niente, la nausea che mi assale, che mi stringe ogni giorno. Due mani, una via di fuga forse troverò. Due mani, una via di fuga.